ci sarò. È un'emozione che presto vivrò. Non c'è un amore che può far male quando si vive in due. If you'll be there, I'll be with you. We got to hold on to all what we've got. We'll cross the oceans, fly with emotions, 'cause we are a future life in a future mind. Non c'è un amore che può far male quando si vive.